No. Quando volete una mozzarella? Sì, sì. Quando vuoi tu? Com'è che si dice c'è? Ciao, ciao. Sì, ciao. Sì. Boh, ok, l'ha spento. Allora, intanto buonasera a tutti. Siamo qui con Luca Guidi e Luca Carotenuto. Guidi e Carotenuto, Levando e Luca, che presentano L'Epoca d'Oro, il loro disco d'esordio. L'Epoca d'Oro, qual è la vostra Epoca d'Oro? Cosa, perché L'Epoca d'Oro? Sono per voi. Certo. L'epoca d'oro, il pezzo lo dice, è finita l'epoca d'oro, quindi sicuramente in qualche modo sta nel passato, forse nei racconti dei nonni, dei genitori, di un periodo diverso, però magari si spera anche nel futuro, perché insomma, sicuramente non si ha la sensazione di vivere in un periodo particolarmente florido, però no, non buttiamoci giù, ecco. Quindi potrebbe tornare questa epoca. Ma sì. È perché... come l'era del cinghiale bianco. È un po', sì, esattamente. Esattamente. Anche in bianco, anche del cinghiale in bianco. Potrebbe essere anche stasera. Sulla copertina siete due astronauti. Grazie per il complimento, perché c'è due astronauti. Un po' strampalatoni, insomma. Io ho pensato a due astronauti. No, ti ringraziamo perché l'intento era sicuramente quello, però come vedi in realtà abbiamo due tute da apicoltore, sì, e abbiamo due pinne ai piedi da sub, perché insomma abbiamo tutto il nostro modo di sbarcare su pianeti sconosciuti. Abbiamo fatto le foto a Halloween, questa è la motivazione. Giravamo così per... No, in realtà è un po' una sorta di spedizione... astronauti di origine moldava, insomma, una situazione un po' così, ecco. Sì, un po' così. Low cost. Astronauti low cost. Presto avremo anche voli low cost, quindi va benissimo. Assolutamente. Volete farci sentire intanto qualcosa? Ma io direi che se Carotenuto è d'accordo, visto che siamo nel pieno di un'attività commerciale, suoniamo un pezzo che rende omaggio a questa bellissima situazione che si intitola Partita IVA. Perfetto. Sono d'accordo. Anche un po' per condividere con voi le sofferenze che si possono provare nel gestire un'attività commerciale. IVA, tra l'altro, se ci sei, se ci senti, torna. Ti prego, perché c'è da pagare l'affitto, le bollette, da fare la spesa, insomma. Ne avrò bevuti un milione. Partita IVA, lei che faceva la spesa, se mi vedesse con la lampada accesa ed un caffè come cena, non ne sarebbe sorpresa. E non c'è più l'ombra delle luci del passato, è l'aria che respiro che mi lascia senza fiato. No, non c'è più l'ombra delle luci del passato. No, non c'è più l'ombra delle luci del passato, è l'aria che respiro che mi lascia senza fiato. No, non c'è più l'ombra delle luci del passato. Sono in attesa di una contesa perché ho un esercito in testa, un esercito in testa. Sono in attesa di una contesa, perché ho un esercito in testa, un esercito in testa. Sono in attesa di una contesa, perché ho un esercito in testa, sempre vicino alla resa. Non c'è più l'ombra delle luci del passato, è l'aria che respiro che mi lascia senza fiato. No, non c'è più l'ombra delle luci del passato. No, non c'è più l'ombra delle luci del passato, è l'aria che respiro che mi lascia senza fiato. No, non c'è più l'ombra delle luci del passato. Iva è andata via ed io rimango indebitato. Partita Iva. Grazie. Grazie a tutti. Vi siete definiti cantastorie nazional portuali e ora ce lo spiegate. E ora è un casino. No, allora intanto siamo livornesi, quindi il porto per noi è importante, è proprio anche in tutto quello che rappresenta, no? Che lo tenuto, luogo, certo, di incontro, sì, di culture diverse. Il crocevia culturale che potrebbe essere una città come la nostra, ce lo portiamo insomma il più possibile dentro. Anche questa è un po' l'idea di partenza, che a casa e guardando fuori, insomma un po' il filo conduttore è quello lì. Anche un po' lo spirito del portuale, no? Cioè anche un po' così che si arrangia, che trova le soluzioni della vita, però in modo semplice, anche un po' così, con l'attitudine da, anche quindi da livornese. C'è parecchio Livorno nelle vostre canzoni, e chi lo sa, c'è? Ma io direi di sì, ma perché certo, sicuramente c'è, perché c'è in tutto quello che c'è prima delle canzoni. Questo è chiaramente naturale, insomma, alla fine c'è tanta Livorno, poi c'è anche tanta Roma, perché in realtà il Guidi si è trasferito ormai quasi in pianta stabile nella capitale, per cui alla fine nel lavoro ci rientra anche un po' quest'ottica più romana. Dal punto di vista forse musicale, anche come sicuramente c'è, anche noi ci siamo conosciuti musicalmente, ecco, prima che umanamente, anche perché altrimenti forse... Assolutamente. Non si sarebbe fatto niente. Niente. No, però insomma, una cosa che ci associa è anche l'amore per tanta musica che proviene dalla capitale. Però insomma, anche dalle nostre parti abbiamo i Bobo Rondelli, Virginia Miller e anche i giovani come Gio Mannucci, che guarda casa è tra il pubblico, che fanno cose bellissime. Quindi forza Livorno sempre. E di Roma che cosa, qual è diciamo il tipo di musica che vi attira su Roma, chi sono i personaggi che citereste? Ma a me vengono in mente quelli della generazione degli anni 90, i Fabi, Gazzè, Silvestri, tutta questa musica che un po' ispirandosi al cantautorato precedente, però ha dato una formula un pochino più ringiovanita, un pochino più fresca a quell'idea di cantautorato che era rimasta un po' ancorata agli anni 60, no? Che è andata oltre i vari Venditti. Sì. E dove la ritroviamo nella vostra musica? Come la ritroviamo? Ci fate sentire? Facciamo sentire Delirio, che non so se è proprio... Ma chissà... Io in ogni caso ho un po' di delirio. Allora ci mettiamo un po' di delirio. Ok. Se io possedessi un attico, trascurando ogni cosa, ogni strada, ogni angolo, perderei il desiderio proibito, un progetto preciso, un orizzonte pulito. Tu resta dove sei, cerca di capire e lasciarmi andare. Sei geloso, sei invidiosa, sei affettuosa, sei curiosa, obbligato. Medicine e storie per combattere il fastidio di uno stato naturale di disordine e delirio. Oggi poi che vivo sul lastrico e trascuro ogni cosa, ogni strada, ogni angolo, è per questo che non ti ho cercato, che non ho votato, che non ti ho aiutato. Scuse perché è tipo sul tempo, hai speso tempo, se conti il tempo, no, non ho quel tempo per me. Oggi che vivo spesso in bilico e che sto ben lontano dal tuo metafisico, d'improvviso un profilo politico, due cannucce e un mojito, un mi piace col dito. Tu resta dove sei, cerca di capire e lasciarmi andare. Sei geloso, sei invidiosa, sei furioso, sei curioso, obbligato. Medicine e storie per combattere il fastidio di uno stato generale di disordine e delirio. Oggi non basta più miracolo, mentre penso qualcosa, oggi ho perso il megafono, anche se sembra tutto meccanico, il controllo dell'auto, un genio elettronico, chiamo un taxi per parlarti, scendo in strada ma non so dove trovarti, dai, che tempo sai, che tempo dai, che tempo sai, che tempo. Per noi, va benissimo, ci vuole un po' di delirio. E avete parlato di come avete iniziato, di come vi siete conosciuti all'interno di Sinfonico Honolulu. Raccontateci un po' come è nata questa collaborazione tra di voi. Vado io perché ti ha preso lo spritz e quindi sono più lanciato. Ah, semplicemente ci siamo incontrati all'interno di questa orchestra fantastica in cui ci siamo divertiti tanto suonando un po' in giro per tutta Italia, e l'orchestra ha fatto un suo percorso dall'inizio in cui reinterpretavamo insomma brani importanti della storia del rock dagli anni 60 fino ad oggi, però nel percorso della band ci siamo avvicinati piano piano alla lingua italiana, per cui capitò che ci dessimo un disco con Mauro Ermanno Giovanardi, che poi ha vinto una Targa Tenco nel 2013, e dopo ci siamo avvicinati invece a un percorso più autoriale, dove abbiamo lanciato dei brani inediti, e io e Luca ci siamo scoperti molto, molto vicini, abbiamo scritto una buona parte insomma dei brani che sono entrati lì dentro. Da lì insomma è partita una strada parallela che ci ha portato poi insomma a questo disco. Quindi direi, no? Decimi soprattutto come indirizzo, cioè come quartiere. Certo. No, effettivamente, avendo scritto insieme buona parte del disco di inediti del Sinfonico, una cosa che ci è saltata subito all'orecchio era una certa compatibilità, e non ci siamo fatti sfuggire l'occasione, anche proprio per il piacere di suonare insieme. Suonare fra cantautori è molto diverso che suonare con musicisti, diciamo, magari più preparati dal punto di vista tecnico di noi, però tra cantautori c'è un modo di intendersi sulla natura della canzone che rende tutto un po' più unito, tutto, cioè un altro modo, un modo un po' diverso che ci faceva piacere esplorare, ecco. Forse un modo più morale di far vivere la canzone. Sì. Voi vi piace molto la dimensione acustica, suonate spesso in acustico. Che differenza avete trovato tra la dimensione appunto acustica e quella invece in studio, dove avete avuto l'apporto di tutti gli strumenti? Beh, in effetti il progetto nasce un po' così, no? Cioè dall'approccio acustico, dalla canzone scritta proprio con la chitarra. E in realtà anche questa cosa della distanza, no? fra me e Luca, che poi vive spesso a Roma, per cui abbiamo iniziato, arrangiando i brani, a giocare un po' con strumenti come iPhone e iPad, e abbiamo iniziato ad arrangiare, a divertirci in questo modo. E quindi al momento in cui siamo entrati in studio, in realtà abbiamo trasferito tutto quello che era stato pensato semplicemente con dei tasti digitali. L'abbiamo trasferito alle mani sapienti di amici musicisti che sono intervenuti nel disco, e chiaramente lo spettro sonoro si è proprio allargato, e ci sono state proprio soluzioni diverse, interessanti, che ci hanno rapito e ci rapiscono ancora, tant'è che facciamo concerti con la band oppure da soli in acustica. Sono due dimensioni entrambe interessanti e assolutamente diverse. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, senz'altro sì. È andato benissimo. No, sono atmosfere molto diverse, entrambe molto piacevoli. Chiaramente uno non, è importante quando suona in acustico che non si affezioni a quello che ti racconta la canzone nel disco, ma cerchi un'altra identità, un altro modo, e di raccontare in modo comunque bello e sincero la canzone, anche con strumentazioni diverse, insomma. Sentiamo qualcosa. E allora lo usiamo questo iPad, che dici? Usiamo l'iPad. Si fa... giochiamo un po'. Facciamo un pezzo lento, così, perché si è fatto del delirio. Allora proponiamo il brano che dà il titolo all'album. Anche secondo me. Quindi la traccia all'epoca d'oro. L'unica, per allacciarsi al discorso, la ballata lenta, che anche nel disco rimane molto molto vicino a quello che è il modo in cui è stata, insomma, creata. In realtà poi noi qua ci mettiamo un ruzzolino, insomma. In realtà, caro Tenuto, sembra che stia suonando l'iPad, ma quando lo vedete spippolare, sta chattando con miriadi di ragazze innamorate di lui che gli scrivono su WhatsApp. Non so se vi siete accorti che è un bel ragazzo. Sì. Vabbè, tanto è fidanzato e c'ha un figliolo, sì, che insomma. Ma a questo punto diciamolo anche apertamente, ce n'è anche uno in arrivo. La compagna qui, se volete gentilmente, grazie. Guarda come l'ha lanciata, ci è arrivato piano piano, no? Da lontanissimo. Anzi, facciamo anche un po' di più, no? Questa epoca d'oro a chi la dedichiamo? No, ora maestro. Che sia un'epoca d'oro, no? Che sia, certo, un'epoca d'oro. No? rido a lungo in attesa di tempi migliori. Di una nuova stagione di sogni e di rivoluzioni che non siano già state sognate. E noi? Noi non siamo diversi da loro. Sono giorni che piove ed il viaggio che è appena iniziato. Lo hai davanti. Dispiace, sono lento e tu non sai più aspettare. I miei passi rimasti pensati da piedi di pietra e da mani spiegate nel mare. È finita l'epoca d'oro e non resta che stare a guardare. Questa strada che sembra infinita e che lascia alle spalle tutto ciò che non sa immaginare. Noi non siamo diversi da loro. Sono giorni che piove ed il viaggio che è appena iniziato. Grazie. Prima parlando dicevate che è abbastanza particolare il fatto che due cantautori suonino insieme, che è diverso appunto fare musica fra due cantautori. Allora, a questo punto, come nasce una canzone fra due cantautori che si mettono a lavorare insieme? C'è una banda. C'è la banda. Passa la banda e tutto un tratto nasce una collaborazione, per esempio. Con la banda. Per la verità, se posso abbreviarmi, certo. Per la verità, il lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi è sempre stato abbastanza indipendente. Posso prendermi una pausa? Secondo me hai perso l'attimo per dire le cose che non si possono dire. Cioè, tipo, che nessuno avrebbe sentito. Le parolacce, dici? Sì, tipo, quella cosa. Una serie di parolacce così gratuite. Sì. Va bene. E di cosa stavamo parlando? Di come nasce la canzone. Sì. No, fino ad oggi abbiamo lavorato in modo abbastanza autonomo, cioè, in modo abbastanza separato. Cioè, ognuno si è scritto le sue canzoni e poi le abbiamo lavorate insieme sul piano dell'arrangiamento, della produzione. Cioè, non toglie che nella nostra testa c'è anche l'idea di provare a scrivere insieme. Però quello è un passo che ci eravamo proposti di posticipare dopo esserci conosciuti più profondamente. Va benissimo. Che dici? Pratica... No, mi ci ritrovo in queste tue parole, sì. Quindi in pratica ognuno scrive le sue canzoni. Le lavoriamo, sì. Ecco, se posso aggiungere, perché così sembra in effetti nel... Perché... Com'è che poi nasce una canzone nel caso nostro, no? Cioè, io credo che una canzone nasca da molto prima, nel senso che il nostro modo, nel caso nostro, il fatto di scrivere insieme dipende dal fatto che molti pensieri che finiscono nelle parole o anche soluzioni musicali nascono proprio anche dal confronto fra di noi prima ancora. Per cui poi ognuno si ritrova nel suo spazio a buttare giù quello che è la sua canzone e poi ne riparliamo durante l'arrangiamento. È un percorso che parte già da prima in realtà insieme, a livello inconscio forse. Ma se poi proprio lavoriamo di tutta, visto che prima ha detto ora che passava la banda potevi dire le parolacce. Ecco. Nel caso mio la cosa funziona così, io scrivo le canzoni, le sottopongo e lui me le censura, mi toglie tutte le parolacce, vero o no? Non solo le parolacce, se proprio devo farlo parte del cattivo... Sono spietato col maestro quando arriva col pezzo, io cerco di essere l'amico sincero e vado proprio lì, entro a gamba tesa e sì, è vero, lui è vero. Spesso se ne va triste, ma in realtà credo di avergli fatto... Ma fa bene lui, io quando mi fanno schifo le sono, glielo dico male, finisco nel disco. Che errore madornale. Allora adesso una canzone di quale dei due? Che facciamo? Facciamo? Beh, visto che fa caldo e finalmente arriva sta primavera. E facciamo primavera calda. E di chi è? Caro Tenuto. Un applauso per Caro Tenuto. Strada, avevo ben due assi, una missione straordinaria, come sai, ma non sai mai. Avevo mille modi di incrociare il mio destino, mettermi sul mercato d'avvocato da bambino, e questo sai, non si sa. Sono italiano ed ho un gran difetto, ignoro il principio causa-effetto. Come mai? Oh, come mai? Oh, come mai? Ho accumulato debiti ma non ho speso niente. di un dipendente, però non lavora mai. Ma proprio mai. Siamo nei guai. Siamo nei guai. Ma per quel principio, sai, cazzo mai, siamo nei guai, però non cambio mai. Ignoro il principio causa-effetto, causa-effetto, causa-effetto, come mai, oh come mai, oh come mai, siamo nei guai, però non cambio. Grazie mille. Ne facciamo un'altra ruota? Che facciamo? Per ruota? Facciamo niente. Una andrà fatta, eh? Certo. No, però volevo far notare che a fronte di tutte queste discussioni l'unica parolaccia del disco l'hai messa tu. Ma torna proprio bene, perché te non mi fermi mai. Eh sì. Anzi. Questa attività di censura. Il Guidi, nella speranza che io non lo censuri, mi lascia fare errori. Esatto. Ah, questa è una canzone che si intitola Niente. E quindi, che dire su questa canzone? Niente. Ascoltatela, insomma. Anche la fame passerà, le mille promesse riposte ordinate per gli anni a venire che non vengono mai. Non niente, fino a che poi non senti niente. Non so vivere il presente, davvero. Vedrai, è solamente una questione di tempo. Poi anche la rabbia passerà, il caldo di maggio è un omaggio alla pace, al divano e alla voce calda della TV. Niente, fino a che poi non senti niente. Non so vivere il presente, davvero. Dice che passa e non passa più. Dice che passa e non passa più. Dice che passa e non passa niente. niente. Grazie. Scrivete un po' di tutto, di quello che vi circonda, come vi vengono queste, dove trovate i temi da affrontare nelle vostre canzoni? Parti tu. Ah no, scusa, ero impegnato nell'accordatura che mi aveva dato problemi nell'ultimo giro. No, è semplicemente... Ci confrontiamo molto su quelle che sono un po' le nostre... cioè, è un discorso difficile perché si rischia di essere presuntuosi, no? Quando si affrontano delle tematiche che sono la vita di tutti i giorni. Cioè si passa... Quando si parla di queste cose potrebbe essere, sembra una banalità, esattamente l'opposto. Noi in assoluta sincerità, veramente in amicizia ci siamo confrontati tanto. E appunto in realtà abbiamo avuto anche la possibilità di stare anche tanto in giro suonando appunto con l'orchestra in situazioni precedenti, che secondo me ci ha portato proprio fuori un po' dalla dimensione ordinaria, no? Cioè della vita che si fa a casa tutti i giorni. E probabilmente non registrando all'anagrafe i 20 anni, ma qualcosa di più, viene abbastanza naturale proprio confrontarsi con le persone fuori, ascoltare... incontrare persone che si scopre che sono simili anche se sono di altre città, insomma, e io credo che nasca tutto proprio da lì, semplicemente tutto da lì. E poi abbiamo sto vizio di suonare, se no chissà cosa diventerebbero queste riflessioni. Nel caso nostro diventa un canzone. Serate alcoliche, probabilmente. Anche, cioè, certo. Cioè. Perché attualmente non succede mai. No. Attualmente. Sì, e in generale anche, penso, c'è questa cosa che uno magari fa delle esperienze di vita personale, no? Quindi poi chiaramente nel momento in cui uno cerca di raccontare una storia deve fare quel piccolo saltino fuori dalla propria vita per anche, prima di tutto, rendersi conto che le proprie esperienze non sono solo proprie, ma sono quasi sempre abbastanza banali, universali. E poi per rendere una storia interessante diventa necessario anche un po' spersonalizzarla, uscire fuori dal diario e cercare di raccontare una storia che non sia proprio la propria, ma che in qualche modo racconti qualcosina di più o di meno, dipende un po' anche da come va. Dalla storia. Sì. Adesso che storia ci raccontate? Bella domanda. Io direi una storia integrale, senza lasciare niente al caso. Dunque, io su questa canzone però due cosine le volevo dire. Dicele, assolutamente. So, se ci avete un quarto d'ora. È una delle canzoni a cui tengo di più, si intitola Integrale, e racconta un pochino come spesso nella difficoltà di capirsi, trovarsi, risolversi, si vada a curare proprio l'esteriorità, sperando che nel curare l'esteriorità si in qualche modo metta a posto anche la parte interiore, quando invece magari spesso è più il contrario, no? È più quando uno sta bene che anche tutto quello che l'aspetto psicosomatico emerge in modo positivo. Quindi io che poi vivo a dieta da 40 anni, anche se ne ho 35, ho scritto questa canzone sull'apprezzamento di tutto ciò che è integrale, fra cui cornetti, panini, nudo integrale, tutto ciò che è integrale, insomma, no? Integrale. Chiamo l'applauso per il maestro Luca Guidi. Thank you. Non amo ciò che è raffinato, il bianco sai mi appesantisce un po'. È una questione di stile. Non cado in facili illusioni, ormai da 100 colazioni e più. Dolcificare fa male. Non vale prendere o lasciare, non ho più niente da mangiare, ma ancora briciole di cuore ed una dieta che non seguo più. Tra il desiderio del mare e una tazzina di tè c'è quel mio stato neutrale davanti a ciò che non c'è. Ricordo il nudo integrale in Costa Azzurra con te, ogni ricordo parziale. Seriale. Cerco una serie da guardare con l'audio in lingua originale e poi se l'edizione integrale mi basta poco per star bene senza censura nelle scene. Un po' più sangue nelle vene e questo amore fatto senza te. Tra il desiderio del mare e una tazzina di tè c'è quel mio stato neutrale davanti a ciò che non c'è. Ricordo il nudo integrale in Costa Azzurra con te, ma ogni ricordo è parziale. Nel significato, cercare tutti i significati delle parole, c'è questa cosa, questa ricerca, la fate un po'? Credo che sarebbe impossibile fare questo mestiere barra senza un amore profondo proprio per la parola, cioè per il suono delle parole. Non è così scontato. Non è no, così è vero, scontato. È vero, però credo che sia, non so che l'ha tenuto, te come la vedi? Sì, è una, senz'altro è un aspetto divertente della vicenda, insomma, si gioca, si vanno a cercare un po' le immagini, si cercano un po' delle soluzioni non scontate, insomma, nel senso che comunque sia con molte, molte sfaccettature, anche per noi stessi, almeno io in questo caso chiaramente parlo per me, cioè quando si usa le parole, insomma, spesso una cosa ne vuol, significa già molte cose, una cosa sola per noi che scriviamo, quindi presumo anche per chi poi si trova a leggere, ascoltare, se riesce ci fa chiaramente un piacere, insomma ci si lavora sempre tanto, per cui insomma. Capita persino che uno mette una parola più perché gli è venuta in mente, ci suona bene, che per altri motivi più raffinati, e poi pian piano scopra che quella parola ha dei significati che neanche avevi immaginato prima di inserirla, no? Quindi un po' è anche il suono racconta spesso tanto delle parole più anche il significato. E voi l'avete pubblicato questo qui anche grazie a un concorso, cioè a una sì. sorta di concorso pubblico, diciamo. Come vedete oggi il panorama musicale? È facile affacciarsi? No. No. Sarò moderato. Sarò moderato? No. Non è detto che sia negativa questa cosa, nel senso che sicuramente c'è tanta proposta, come dire, purtroppo sono veramente tante cose da dire. Allora, c'è tanta proposta. Io una cosa che sto mettendo a fuoco in questi giorni è che in realtà tanto lo fa il modo in cui si parla di quello che fai. Per cui il problema più grosso, secondo me, di questa tanta proposta e di quello che succede oggi è che spesso non si mette a fuoco quello che c'è dentro una proposta, ma proprio come si presenta. E questo chiaramente è un problema, è un male dei nostri tempi in generale, però prende sempre più importanza questa cosa. Quindi chiaramente come tutti i processi poi... Nel tempo le cose che poi meritano di rimanere rimarranno e niente, si va chiaramente avanti così, cercando di rimanere. Io credo che di fronte a tutta questa proposta spesso è facile farsi ammagliare dalle sirene, no? Per cui invece secondo me uno deve cercare di rimanere, di esplorare, non di rimanere sempre lo stesso, però di esplorare le cose che veramente uno sente di voler andare a cercare. E sperare di incontrare qualcuno che voglia ascoltarlo. Comunque è anche un periodo un po' particolare in cui un musicista, se utilizza i social, per esempio attraverso Facebook, lo stesso musicista se posta una foto di lui con la chitarra in mano prenderà molti più like che se posta la sua canzone. Quindi questo è un po' la dimostrazione che si è spostato proprio il centro di interesse anche di quello che fa l'artista, no? E chi ne soffre di più è chi ha fatto una carriera in un periodo, in un'epoca in cui non era così e in qualche modo deve reinventarsi. Li vedi che lottano con questa cosa con grande sofferenza, però d'altra parte che c'è da dire? Che diciamo? Che cantiamo? Che cantiamo? Una lettera di raccomandazione. Vuoi? Va bene, ok. Scriviamo una lettera di raccomandazioni. Non quelle raccomandazioni all'italiana, no, anzi, no. A proposito dei figli, torniamo al discorso prima. Questa è una canzone che io ho scritto pensando proprio a lui, a quello già arrivato. L'hai già raccomandato? Sì. Ci è sei piccino ancora. Per te. Una condizione che più volte incontro. incontrerò. La convivenza tra ciò che è reale e ciò che non sarò. Smetterò, ma no, credo non mi stancherò. Nei secoli le storie si ripetono. Tu non dimenticare mai quelli che ci precedono. E lividi rimangono per poco, sai, che quasi ti dimentichi fino a quando non ricadrai. Se nasce una condizione che per strada incontrerai, la convivenza tra ciò che è reale e ciò che non sarai. Ma no, tu non smettere mai. Cioè si esce dal disco. Quanto tempo abbiamo? Quanto ne volete? Allora andiamo con un inedito. No, che inedito, cioè, più questo, o meno. Questo è editissimo. È editissimo. Però sarebbe un pezzo che abbiamo fatto in passato con questa gloriosa orchestra di ukulele dal nome Sinfonico Honolulu. Abbiamo fatto anche un bel video a inizio estate, quasi fine primavera, girato sulla spiaggia di del Romito a Livorno, bellissimo, a Quercianella, che cos'è? C'è anche Gio Mannucci, un applauso a Gio Mannucci. Ma io, cioè, Giorgio, nell'eventualità che tu ti sentissi di cantarla, non lo so, è un po', la facciamo un po' diversa, eh? In effetti la facciamo un po' diversa, però se vuoi noi... Se ti vuoi venire qui anche così, però, sarebbe bello. Sì. Nella versione attuale di lui, ma un disastro. Ok, no, allora la rimandiamo la prossima volta. Comunque nell'allora formazione il pezzo che a suo tempo avevo scritto, in realtà lo cantava Giorgio, e nel video bellissimo Ormai ci siamo, le coreografie in cui ci tra l'altro è il motivo per cui siamo usciti dal gruppo, no? Tra l'altro. Mirabolanti. balletti di Mambo e Cia-Cia-Cia, le coreografie erano proprio della Noemi Barbanti. Che io facciamo un applauso anche a lei a questo momento. Oggi distribuiamo applausi anche un po' in tutto il negozio, no? Lei cosa ha fatto nella vita? Troviamo un modo per applaudirle. Qualcosa di interessante. Come? Ma non ho capito, ma un applauso lo facciamo lo stesso. Quindi la proviamo così? Ma sì, ma oggi non siamo, ormai siamo così. Ma sì, divertiamoci. Perché succede, succede. Siamo fra amici. Eh? Ok. Sei sicuro? Sì, tanto per mettere un po'. Perfetto, ogni traguardo, ad ogni modo, ad ogni scatto del resto, quello che resta, quello che conta, quello che è vero sembra quasi perfetto, ma è un difetto in ogni campo, nell'esattezza non esiste scampo, non c'è futuro ed è per questo che il presente non è mai perfetto. Ho scritto un testo, ho fatto un viaggio, ho letto un saggio ed ho scoperto di essere diverso, a tratti uomo, a tratti omaggio, ed è per questo che mi sono perso, ma se ci penso mi sento meglio, in questo stato fatto di miraggio, in questo stato giovane imperfetto, forse un po' troppo imperfetto. Allora tererà, allora tererà. Diciamo così a braccio, prova a cambiare sguardo, forse mai che per qualcuno col suo passo per dispetto, o anche solo se distratto, lo cantiamo così a braccio, prova a cambiare passo. Di un treno in corsa, di un capoverso, il resto, quello che ho in testa, quello che conta, mi sembra vero sempre quello che ho perso, ma è un difetto in ogni campo, perdendo fuoco mi ritrovo stanco, in questo stato giovane imperfetto. Attento, se non sei proprio sul tempo, lo diciamo così a braccio, prova a cambiare sguardo, forse mai che per qualcuno col suo passo per dispetto, o anche solo se è distratto, lo cantiamo così a braccio. Sinfonico con un ukulele, che è uno strumento un po' particolare, come è stato? È stata un'esperienza affascinante. Devi ripartire con sarò moderato. Sarò moderato. No, è stata un'esperienza molto bella perché personalmente io arrivai in seconda battuta, l'orchestra aveva già insomma preso un po' il via, fui chiamato in corsa. Quando mi chiamarono io non sapevo assolutamente cosa fosse neanche un ukulele, è bene dirselo chiaramente, anche perché non avevo ancora, a dir la verità, preso il largo. Cioè, per essere chiari, tipo Eddie Vedder non aveva ancora pubblicato il suo album solista con l'ukulele. Poi ho sentito il sinfonico no Lulu. Poi ho sentito il sinfonico e ho detto, ma ragazzi, lasciamo un attimo da parte. Voglia de. E quindi in realtà presi tra le mani questo strumentino di derivazione portoghese a quattro corde, apparentemente un giocattolo, e poi in realtà si scopre che dietro ci sono tantissime, tantissime cose importanti, tantissimi suoni belli che possono uscire fuori da uno strumento così appunto così piccolo. Si impara anche a gestirlo, perché nel caso nostro dell'orchestra il percorso è stato tutto quello di iniziare ad arrangiare le parti, a diversificare, perché per tornare al discorso dei fonici che facevamo prima con René, cioè inizialmente erano mani nei capelli per i fonici perché avevamo questi strumenti che viaggiavano tutti sulle stesse frequenze, cioè ci odiavano. Cioè perché... sulle stesse frequenze, le frequenze erano tre, tra le altre frequenze. Non è che ci fosse un range così. Quindi sì, insomma è stata un'esperienza molto molto molto bella e niente, poi il giocattolo in effetti è diventato uno strumento serio, poi per fortuna ha preso il largo, è uno degli strumenti più venduti ad oggi, in realtà molto semplice, molto... E ci sono esempi anche importantissimi, cioè al di là del, non so, di Marilyn Monroe che a qualcuno piace caldo, insomma, e in realtà abbiamo proprio George Harrison, per esempio, che scrive scriveva con l'ukulele, scrive nel senso di scrivere pezzi importantissimi con l'ukulele, e quindi, insomma, sì, è veramente molto interessante. Perché mi guardi? Perché come io ho sempre l'idea che tu voglia aggiungere qualcosa. No, in questo caso qui sono stato esaurito. Sono stato così bravo che cosa devo aggiungere? Non so, le tue sensazioni rispetto al percorso con l'oculare. Non vedevo l'ora di smettere di suonarlo. Cioè, anni con questo strumentino, quattro corde, piccino, basta. Insomma, ora suoniamo le chitarre, l'iPad. No, vabbè, è stata una cosa bellissima, devo dire, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista umano, girare con tante persone piacevoli, era una banda di matti, quindi era impossibile non divertirsi, ecco, insomma. Ecco, sì, se posso, proprio tanto ormai siamo nel richiamare quel... Sì, cioè, il bello, tra l'altro, dell'esperienza è stato proprio questa cosa, che alla fine... tanto il Sinfonico è ancora attivo, sta lavorando, noi siamo usciti, ma insomma, ma il bello di quell'esperienza là è proprio il fatto che te lavori con un collettivo, cioè sono proprio, c'è questo atteggiamento d'orchestra, ma in realtà sei una band, per cui le sfaccettature sono molteplici, ma c'è proprio l'idea di un insieme di persone. Questa cosa qui è molto bella, quando si toccano momenti di punta emotivi, insomma, sono esperienze che auguro a tutti. Sono momenti convissuti, sì. Ma ne facciamo un'altra del Sinfonico Volo? Ma certamente. Quante altre canzoni possiamo fare? 18, 19? Quante possiamo andare? A una certa ora chiuderemo. Cioè... Ah, si chiude noi, ci lasciate le chiavi. Vabbè, a posto. Allora, questa faceva parte del disco Il Sorpasso del Sinfonico Volo. È una canzone che parla di amore e difficoltà respiratorie e si intitola Apnea. Passione interrompe sogni umidi, ma senza emozione, senza pace, senza tregua, senza conciliazione, la guerra dell'asmatico, la respirazione. Le ore spese in ospedale valgono il gioco, che il tempo quello è solo mio ed è sempre poco, e poi ti abitui pure al peggio, persino ad annaspare, se la tua vita è sempre stata così ed hai paura di cambiare. Che se la vita è un fiato, l'amore è in apnea, in mezzo ai tuoi discorsi, l'amore è solo idea, e se non ti sto dietro, tu non scappare via, che se la vita è un fiato, io adesso sono una plea. Cosa penserò la notte quando non riuscirò a dormire? Tra sogni alcolici, le apnee e la fatica nel mangiare. A te che guardi nei miei occhi e tutto quello che sai dire, che in fondo sono stato io che ho scelto di non respirare. Giorni senza un'ora d'aria e condizionati dalla metà al cortisone e ai bicarbonati, e poi ti abitui pure al peggio, persino a rinunciare. Se la tua vita è sempre stata così, e hai paura di cambiare. Che se la vita è un fiato, l'amore è in apnea. In mezzo ai tuoi discorsi l'amore è solo idea, e se non ti sto dietro tu non scappare via. Che se la vita è un fiato e adesso sono apnea, e adesso sono apnea. Da adesso in poi, quali sono i vostri progetti, cosa volete fare adesso, se ci sono concerti, se c'è già l'idea di un altro disco, cosa c'è? Allora, devo dire una cosa, di idee ce ne sono tante, però non le possiamo, cioè sono segretissime, diciamo che non ci intendiamo tanto, cioè di solito io porto un'idea e lui mi guarda come dire, ma che stai lì? E viceversa, solo che io mi fido molto di quello tenuto perché è l'inventore del car sharing. E quindi insomma mi rendo conto che quando anche io, siccome non lo sapete, no, cioè anni e anni fa, quando ancora non esisteva Carotenuto, aveva ipotizzato il car sharing, e amici, parenti mi hanno detto, ma che stai a dire, ma ora ti pare che la gente si scambia le macchine? Scusa, vero? Perché ora è toccato un tasto veramente dolente. Dove sono dolente. Non è che amici, parenti, io a un pranzo di Natale in casa mia ho detto, immaginatevi se un giorno non esistesse più la macchina di proprietà, esistessero le macchine che si possono prendere a seconda del bisogno che uno ha, e il pranzo di Natale, cioè, fu proprio masnati. Quindi io non vorrei essere il prossimo a cadere nell'errore di sottovalutare le grandi idee del Carotenuto, e quindi anche quando... Credo che faremo come dice lui, a prescindere. Che responsabilità. Devi avere un'altra visione, un'altra grande visione. Speriamo. In genere è un po' come chi vince al Supremo Lotto, cioè capita una volta nella vita. Quindi insomma, la statistica sì, non è da nostra non parte. Avendola sfruttata puoi sempre rigiocarti la carta. Io avrei idea di fare 2 o 3 canzoni per chiudere, però devo chiedere il permesso al Carotenuto, perché gli volevo proporre di fare una canzone inedita. Sì? Scritta al Carotenuto, che è la mia preferita. La più bella non l'ho voluta mettere nel disco. Non so perché. Va bene. Anzi, mi raccomando, se poi vi piace questa canzone, non comprate il disco, perché non c'è. No, ci tengo. Ora le domande sono due. Devo capire qual è la canzone. Ma come, l'hai già capito? E devo capire se me la ricordo. Vabbè, allora, se hai fortuna la capisci da solo. Beh, dai, intanto i pezzi di Miles Davis non li abbiamo ancora scritti. Che ne pensi? Ora che tutto è cambiato, ora che tutto è diverso da come l'ho immaginato, cosa hai scelto da quello che hai studiato, cosa che hai imparato, cosa che hai abbandonato, tra le carte mischiate del mazzo in cui sei cresciuto, ora che tutto è scoperto e che ti senti confuso, sarebbe una gran fortuna. Sarebbe una gran fortuna, adesso è cosa dura. Sarebbe una gran fortuna non aver paura. Sarebbe una gran fortuna, ma adesso è cosa dura. Ora dimmi, di questo mazzo di chiavi ne avevi proprio bisogno o preferivi le ali? Ne sono certo che non c'è niente di male, ma è diventato un biglietto per non potersene andare. Un ruolo, un progetto, una destinazione, dovere, potere, volere, potere. Sarebbe una gran fortuna non aver paura. Sarebbe una gran fortuna, ma adesso è cosa dura. Sarebbe una gran fortuna ma non aver paura. Sarebbe una gran fortuna, ma adesso è cosa dura. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da

paura e fastidio, è uno stato generale di disordine e delirio. Oggi non basta più mirare con il mentre pensi fuori, non c'è più la sua bella vita. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Grazie mille. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo. Altra film. La signora è stata fuori a sentirvi. Oh, scusa, era da me. foto con lo staff. Sì, allora, devo fare. Subito. No, no, subito. La casa è Ma figurati se non è attrezzatissima. Ma sei mancino? Sì. Vieni, facci un po'. Sta picchiando da piccolo. No, non era di quella.